Capitolo undicesimo. I vizi. L'ambizione. L'ambizione è il desiderio smodato di onori. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: a chi va in cerca della fama in questo mondo, Allah non concederà la fama nell'altro. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, colui che gode nel vedere gli altri alzarsi al suo apparire per rendergli omaggio, prepara a sé medesimo un sedile di fuoco nell'inferno. La superbia. La superbia è il vizio di chi ha eccessiva stima di se stesso accompagnata da disprezzo per gli altri. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, la superbia è disprezzo della verità e disistima del prossimo. E disse ancora, che Allah lo benedica e la ben gloria, chi abbia avuto in cuore tanta fede quanto il peso d'un seme di senape non entrerà nel fuoco, mentre invece non entrerà in paradiso chiunque abbia avuto in cuore tanta superbia quanto il peso d'un seme di senape. L'avarizia. L'avarizia è il vizio di chi ha un amore smodato per la ricchezza e in particolare per il denaro. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: fuggite l'avarizia! Essa mandò in rovina quelli che vi hanno preceduto, spingendoli ad uccidersi tra loro e a violare ciò che è sacro. E disse ancora, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'uomo munifico è vicino ad Allah, vicino alla gente, lontano dall'inferno. L'uomo avaro è lontano da Allah, lontano dalla gente e vicino all'inferno. È più caro ad Allah un ignorante munifico che un dotto avaro. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, ci sono tre cose che portano alla salvezza e tre cose che portano alla rovina. Le tre cose che portano alla salvezza sono il timore di Allah, sia quando sei da solo che quando sei in mezzo alla gente, la temperanza, sia da ricco che da povero, la veridicità, sia quando ti piace che quando ti dispiace. Le tre cose che portano alla rovina sono la passione, quando viene seguita, l'avarizia, quando tu ne sei schiavo, e la presunzione, che delle tre è la peggiore. L'ira. L'ira è il desiderio smoderato di punire colui dal quale ci crediamo offesi a torto. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, l'ira viene da Satana, e Satana fu creato dal fuoco. Il fuoco si spegne con l'acqua, perciò quando uno di voi si adira, faccia l'abluzione. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, in verità l'ira distrugge la fede come il fuoco manda in cenere la legna. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, la vera forza non è quella di chi riesce a vincere tutti i suoi avversari, ma quella di chi riesce a dominare la sua ira. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, i migliori di voi sono quelli che si adirano lentamente e si placano subito, mentre i peggiori sono quelli in cui l'ira esplode improvvisa e violenta e sbolle lentamente. Perciò temete l'ira, essa infatti è un carbone ardente nel cuore del figlio di Adamo. Non avete notato come il collo gli si gonfi e come i suoi occhi siano iniettati di sangue? L'invidia. L'invidia è il vizio di chi prova dolore per un bene altrui. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: guardatevi dall'invidia, essa infatti distrugge le opere buone come il fuoco manda in cenere la legna. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria, non invidiate il peccatore fortunato, poiché non sapete ciò che troverà dopo la morte. Troverà presso Allah un fuoco divoratore che non muore mai. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non odiatevi, non invidiatevi, non rompete i rapporti esistenti tra voi, siate fratelli come Allah vi ha ordinato. Non è lecito a un musulmano evitare un altro musulmano per più di 3 giorni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non ci deve essere invidia che per 2 persone. L'uomo che, avendo ricevuto da Allah il Corano, con esso passa il giorno e la notte, e l'uomo che, avendo ricevuto da Allah la ricchezza, ne spende di giorno e di notte per la sua causa, per la causa di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non sanno da invidiar che 2 persone. Colui che spende in opere di bene parte della ricchezza che Allah gli ha elargito e colui che mette in pratica ed insegna il sapere di cui Allah gli ha fatto dono. L'ostentazione. L'ostentazione è il vizio di colui che mette in mostra alcunché perché gli altri lo ammirino e siano presi da invidia, e anche quello di chi vuol far credere agli altri di provare un sentimento che in realtà non sente. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi prega per ostentazione si comporta da politeista, chi digiuna per ostentazione si comporta da politeista, chi fa la carità per ostentazione si comporta da politeista. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah renderà famoso colui che va in cerca della fama e metterà in mostra colui che agisce per ostentazione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, a chiunque indossi degli abiti sfarzosi per fare sfoggio della sua potenza, Allah nel giorno della resurrezione farà indossare la divisa dell'abiezione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, in verità la più leggera ostentazione è politeismo, e colui che è nemico di un amico di Allah incontrerà l'ostilità di Allah. Allah ama i pii, i timorati, coloro che agiscono senza ostentazione, i quali, quando sono assenti, nessuno sente la loro mancanza, e quando sono presenti non sono invitati e trattati con onore. I loro cuori sono le lanterne della guida ed essi vengono fuori da ogni luogo polveroso ed oscuro. La gola è il vizio di chi è avido di cibo e di bevanda. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, lo stomaco è il più nefasto dei recipienti che l'uomo riempia. Per nutrirsi basta qualche boccone, e chi vuole mangiare di più riservi 1/3 per il cibo, 1/3 per la bevanda e 1/3 per l'aria. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, noi siamo gente che non mangia se non quando ha fame e che quando mangia non eccede. La curiosaggine è il vizio di chi è sempre alla morbosa ricerca di notizie riguardanti i fatti altrui. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non ficcate il naso gli uni negli affari degli altri e non spiatevi gli uni gli altri. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, a chiunque avrà allungato le orecchie per ascoltare ciò che gli altri stanno dicendo riservatamente tra di loro, Allah, il giorno del giudizio, verserà del piombo fuso nelle loro orecchie. La lussuria è il vizio di chi desidera smodatamente il godimento sessuale. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, temo per la mia comunità il politeismo e la lussuria, e per politeismo non intendo che essi adoreranno il sole, la luna, le pietre, gli idoli, ma intendo che si comporteranno con ostentazione. E quanto alla lussuria, intendo che qualcuno dei miei seguaci, dopo aver iniziato il digiuno all'alba, quando la concupiscenza lo assalirà, romperà il digiuno.